dell'Eurozona è frenata l'asta dei BTP. Finita la paura per Paolo Bosusco, liberato dai ribelli maoisti dell'Orissa. Sto bene, una vacanza pagata, scherza l'operatore turistico. Lega, oggi il Consiglio federale decisivo sul tavolo, i casi Belsito e Rosi Mauro, nell'inchiesta anche le spese personali per Umberto Bossi. Giustizia lenta, Italia maglia nera in Europa per le sentenze inapplicate davanti alla Corte di Giustizia. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione GR24, dunque ben ritrovati. In apertura le previsioni, le stime macroeconomiche della Banca Centrale Europea sull'Europa e non sono numeri positivi. La ripresa economica è graduale, presenta ancora dei rischi, le difficoltà, dice la BCE, sono tutte legate al mercato del lavoro. Sentiamo. Non ci siamo. E forse non era necessario che a ricordarcelo arrivasse anche la BCE, ma il bollettino è mensile e dunque l'appuntamento non rinviabile. L'istituto guidato da Mario Draghi alza il livello di allarme sul mercato del lavoro in Europa. Le condizioni continuano a deteriorarsi e le indagini congiunturali dicono che ci sarà un ulteriore peggioramento nel breve termine, il che vuol dire che il numero di disoccupati crescerà. A questo proposito, Francoforte sottolinea che i paesi che hanno subito perdite di competitività devono darsi da fare, sugli stipendi e sulla produttività. Servono riforme per stimolare la crescita. Uno sforzo chiesto anche a chi è in particolare difficoltà. L'aumento dei differenziali dei titoli di Spagna e Italia sono tra i maggiori fattori di rischio che gravano sulle prospettive dell'area euro. Come se non bastasse, Italia e Spagna sono anche nella lista, con Francia, Belgio, Grecia, Olanda e Portogallo, di quei paesi che quest'anno avranno un fabbisogno di rifinanziamento pubblico molto elevato. Ma i tempi sono cambiati, scrive l'Eurotower, talmente cambiati che i paesi europei dovrebbero tagliare i debiti pubblici a livelli inferiori al 60% del PIL, il che vorrebbe dire molti altri sacrifici per parecchi anni a venire. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fin qua le stime della BCE, adesso andiamo sui mercati, le borse frenano e per l'Italia c'era anche l'appuntamento dell'asta dei BTP. Facciamo il punto con Deborah Rosciani. Ciao Deborah, ben ritrovata. Sì, buongiorno a tutti. Allora, è un'altra giornata in cui sui mercati azionari prevalgono i segni meno ed è un segno meno particolarmente accentuato per Piazza Affari, meno 0,90%. Tuttavia segnaliamo che Milano ha persino migliorato la sua prestazione perché è arrivata a perdere 1,5% a fronte invece degli altri indici europei che vanno in maniera molto diversa. Francoforte guadagna 0,5% ed sono appena negative Parigi e Londra, meno 0,2% rispettivamente meno 0,09%. Milano un po' più sotto pressione perché questa mattina c'era l'attesa per un nuovo appuntamento con il Tesoro italiano, una nuova asta, era particolarmente importante quella dei BTP a 3 anni. Gli investitori hanno fatto una richiesta per oltre 4 miliardi per questo titolo, il Tesoro ne ha assegnati 2,88. Il tema è sempre quello, il rendimento, che esattamente come è successo per i bot a 3 mesi e a 1 anno collocati ieri è risultato di nuovo in vistoso rialzo al 3,89% contro il 2,76% del tasso su questi titoli riconosciuto il mese scorso e siamo sui massimi dallo scorso gennaio. A fronte di tutto questo lo spread, il differenziale tra BTP e Bund, cioè fra i titoli decennali italiano e tedesco, come viaggia questa mattina? Siamo intorno ai 370 punti base, quindi non si scende più di tanto rispetto ai livelli toccati nei giorni scorsi, anche se per fortuna siamo almeno sotto i 400 punti base. Per ora è tutto. Grazie Deborah. E così dunque sui mercati, la disoccupazione in Europa salirà ancora, abbiamo sentito, ha sentenziato la BCE. E allora in Italia c'è la riforma del mercato del lavoro attesa al passaggio parlamentare, la vogliamo anche se servono delle modifiche, ha detto oggi il segretario del PDL Alfano in vista di un incontro con il presidente del Consiglio Monti. Facciamo il punto anche su questo con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. In mattinata si sono visti proprio Confindustria e Popolo della Libertà, un incontro costruttivo, lo ha definito la presidente dell'Associazione di Viale dell'Astronomia, Emma Marcegaglia, un incontro incentrato, è stato spiegato sulle proposte per migliorare e ritrovare equilibrio rispetto al testo della riforma varata dal governo. La Marcegaglia ha anche riferito al segretario del PDL Alfano dell'incontro di ieri tra le associazioni delle imprese, dal quale è emersa la volontà di lavorare ad un documento per far fronte comune con una proposta di emendamenti da presentare insieme ad esecutivo e partiti di maggioranza. Quanto al Popolo della Libertà, lavoreremo alle modifiche con uno spirito costruttivo e non conflittuale nei confronti del governo Monti, ha detto Cicchitto. La flessibilità in entrata, ha ribadito Alfano, è ora troppo sbilanciata contro le imprese. Questa è una posizione sbagliata, commenta però dal sindacato il segretario della CGIL Camusso, secondo la quale l'aumento della precarietà ha indebolito ulteriormente l'economia. Infine la posizione di Palazzo Chigi, a parlare il ministro Fornero, che ribadisce la riforma del lavoro fornirà un contributo significativo alla crescita al paese. E da Roma è tutto. Grazie anche a Vincenzo Miglietta. Adesso invece parliamo della liberazione di Paolo Bosusco. Dopo 28 giorni i maoisti hanno rilasciato l'operatore turistico, sto bene, ha detto, soddisfazione da parte del Ministero degli Esteri per il paziente lavoro che è stato fatto, ha detto il ministro Terzi. E allora facciamo il punto dalla Farnesina con Alessandra Schepisi. Ben ritrovata Alessandra. Sì, grazie. Sì, una vicenda che si è conclusa felicemente. Paolo Bosusco è stato liberato durante la notte nella foresta vicino al villaggio di Mona, non lontano da dove era avvenuto il sequestro suo e di Claudio Colangelo. L'operatore turistico si trova ora nella capitale dell'Orissa insieme all'ambasciatore, al console italiano e ai rappresentanti delle autorità locali, e soddisfazione è stata espressa dal ministro degli esteri Giulio Terzi, che ha parlato di trattativa complessa, sottolineando in una nota come si sia sempre lavorato per garantire la sua incolumità ed esprimendo gratitudine alle autorità dello Stato di Orissa e di New Delhi, il cui impegno è stato determinante per lo sblocco della vicenda, mentre il capo dell'unità di crisi Claudio Taffudi ha rilasciato poco fa una breve dichiarazione ai nostri microfoni. Sentiamolo. La vicenda di Bosusco si è conclusa felicemente. Bosusco è libero da questa mattina, è stato incontrato dal nostro ambasciatore, la vicenda è stata seguita da noi da ieri notte con grande attenzione, il ministro Terzi da Washington direttamente con me e con l'ambasciatore San Felice, il console Melchiori in Orissa, e questa mattina dalle prime ore dell'alba è stato rilasciato nelle mani dei mediatori maoisti che hanno seguito sul campo la vicenda e ha raggiunto poi Bhubaneswar attorno alle 12 di oggi. Bosusco, come dicevate anche voi da studio, sta bene nonostante appaia molto dimagrito, e nelle sue prime dichiarazioni ha addirittura detto è stata una vacanza pagata, poi però ai microfoni di Sky ha corretto spiegando che si trattava solo di una battuta ironica. Sentiamo. Io col mio carattere non ho vissuto tanto nella giungla, ragione per cui ho forse sofferto meno di altre persone, ma ho sofferto fisicamente, ho perso 10 kg. Chiaramente il mio compito quando sono libero, il mio primo pensiero non è quello che penso la stampa e i giornali, ma quello che penso mio padre, la mia famiglia e i miei amici, ragione per cui devo scherzo, parlo e rido semplicemente per assicurare tutti quelli che mi conoscono. E ringraziamo anche Alessandra Schepisi dalla Farnesina. Dunque queste le parole, le prime di Bosusco dopo la liberazione, ai microfoni Sky TG24. Un rapimento durato 28 giorni in una zona dell'India contesa dai ribelli maoisti. È finito l'incubo per Paolo Bosusco, la guida italiana rapita il 14 marzo scorso nello stato indiano dell'Orissa mentre accompagnava in un trekking Claudio Colangelo, anche egli sequestrato e poi rilasciato il 25 marzo. Sono finalmente libero, sto bene, non ho alcun risentimento nei confronti dei miei rapitori, ha detto Bosusco, visibilmente dimagrito dopo quasi un mese nella foresta al suo arrivo a Bhubaneswar, capitale dell'Orissa. Dichiaratisi terroristi nel 1967, i ribelli maoisti si battono con ogni mezzo in difesa delle popolazioni rurali e dei territori meno sviluppati. Protagonisti di attentati e rapimenti, soprattutto a danno di funzionari locali, nel 2009 hanno lanciato oltre 1000 attacchi e ucciso 600 persone. Questa è la prima volta che sequestrano degli stranieri. La notizia dell'imminente liberazione dell'italiano era arrivata stamani da un gruppo di giornalisti locali che si era inoltrato nella foresta insieme al mediatore. Poi il trasferimento in un villaggio confinante con la zona controllata dai maoisti e accessibile via auto. Infine l'attesa conferma della liberazione. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo in Italia con il caso Lega. Oggi è in programma l'atteso Consiglio federale del Carroccio che dovrà prendere delle decisioni sui casi Belsito e Rosi Mauro. Intanto però dall'inchiesta spuntano dettagli sulla cartella denominata The Family. Umberto Bossi e i vertici della Lega Nord sapevano tutto degli investimenti fatti all'estero con i fondi del partito, operazioni che sarebbero state suggerite anche dall'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti. A sostenerlo in alcune intercettazioni telefoniche l'ex tesoriere leghista Francesco Belsito, attorno al quale ruota l'inchiesta sui bilanci del Carroccio. Tremonti nega tutto. Su ordine della Procura di Milano stamattina la Guardia di Finanza ha acquisito i conti bancari di Belsito e della Lega Nord attraverso attraverso i quali sarebbero stati effettuati gli investimenti in Tanzania e a Cipro, ma anche una serie di operazioni sospette come compravendite di oro e diamanti. I PM di Napoli intanto hanno depositato la famosa cartellina De Family, sequestrata a Belsito. Al suo interno ci sono tutte le spese che, secondo l'accusa, sarebbero state fatte con i soldi del partito a favore di Bossi e della sua famiglia. All'interno ci sono, fra l'altro, le multe del figlio Renzo, le spese mediche per l'altro figlio Sirio e l'ICI dello stesso Senatur, ma dall'inchiesta sarebbero anche spuntate 11 case intestate alla moglie di Bossi, Manuela Marrone. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Avevano detto dobbiamo intervenire subito i segretari dei partiti, dei principali partiti di maggioranza, dopo lo scoppio dell'ennesimo caso, questa volta riguardante la Lega, ma c'era anche il caso Lusi Margherita, cioè parliamo dei soldi pubblici ai partiti. Adesso che fine hanno fatto le proposte? Ce lo dice Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, soddisfazione nella maggioranza per l'intesa raggiunta nella notte sulla modifica della legge sul finanziamento ai partiti. Il segretario PDL Angelino Alfano spiega: aumentare controlli e trasparenza mi sembra un ottimo risultato. Contesta invece l'IDV. Per Antonio Di Pietro si tratta di un accordicchio melmoso e fraudolento. Finora abbiamo avuto troppi finanziamenti e bisognava prevedere un taglio netto sia a regime sia della prossima rata. Ma gli risponde per Luigi Bersani del PD: nell'accordo c'è il rinvio dell'erogazione dei 100 milioni di luglio. L'intesa raggiunta nella notte prevede bilanci dei partiti su internet certificati da società iscritte alla Consob, sottoposti alla Corte dei Conti. Viene istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti politici, presieduta dal Presidente della Corte dei Conti. Le donazioni ai partiti superiori a 5.000 euro dovranno essere rese pubbliche, mentre le contribuzioni dei partiti a fondazioni, enti, istituzioni o società eccedenti 50.000 euro annui comporteranno l'obbligo di sottoporsi a controlli della Commissione di trasparenza. Sarà un provvedimento snello, probabilmente un emendamento al decreto legge fiscale attualmente in discussione alla Camera. Per il momento qui da Roma è tutto, vi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. C'è una notizia che riguarda la giustizia, che viene dalla Corte di Strasburgo: record di sentenze inapplicate a causa della lentezza della giustizia in Italia. Ancora una volta l'Italia dunque è maglia nera davanti alla Corte di Strasburgo. Nel 2011 è infatti risultato essere il paese con il maggior numero di sentenze inapplicate, 2.522 su un totale di 10.689. La maggior parte di questi casi di sentenze inapplicate è legata alla lentezza della giustizia nel nostro paese, quanto emerge dal rapporto pubblicato oggi dal Consiglio d'Europa. GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato dei dati BCE sull'Eurozona, fragile, occupazione in calo e c'è la frenata dell'asta dei BTP triennali italiani, le borse sono in calo quest'oggi. Finita la paura per Paolo Bosusco, è stato liberato il operatore turistico italiano dai ribelli maoisti dell'Orissa. Sto bene, ha detto il ministro degli esteri Terzo, soddisfatto per il lavoro che è stato svolto. Per la Lega oggi giornata decisiva con il Consiglio federale che dovrà decidere sui casi Belsito e Rosimauro. Nell'inchiesta ci sono però anche le spese private di Umberto Bossi. Abbiamo parlato anche della giustizia lenta in Italia, maglia nera in Europa per le sentenze inapplicate davanti alla Corte di Strasburgo. Adesso le altre notizie. Cominciare dalla situazione in Siria, dove da questa mattina alle 6, alle 5 in Italia è in vigore il cessate il fuoco secondo il piano previsto dalle Nazioni Unite e dalla Lega Araba, però stando alle notizie che arrivano sarebbe già stato violato dalle forze, dall'esercito fedele al regime. Facciamo il punto anche su questa vicenda con Alberto Negri. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Qual è la situazione per le notizie che si hanno al momento in Siria di questo fragile piano per un cessate il fuoco? Ricordiamo, con i ministri degli esteri tra l'altro riuniti nel G8, e potrebbero anche da questo scaturire delle decisioni che riguardano la Siria, sarà all'ordine del giorno. Ma questa è una tregua armata, un cessate il fuoco assai fragile, come hai detto, perché è stato il risultato di due operazioni. La prima è il fatto che non è un accordo stipulato tra le parti, ma è un accordo voluto dalla comunità internazionale, in particolare ottenuto sulla spinta della Russia, che ha fatto pressioni su Damasco affinché accettasse il piano Annan. Il secondo motivo è perché né il regime né l'opposizione sono intenzionati in realtà a rispettarlo davvero, perché ognuno vuole prendere tempo perché spera di abbattere l'altro. Quindi una tregua assai fragile, e vedremo nelle prossime ore se ci saranno i passi successivi, perché il piano Annan prevede che si ritirino dalle città i carri armati, le truppe, che poi venga avviata persino una transizione politica, un negoziato. Come e quando, però, è tutto da vedere. Grazie Alberto Negri. Dunque, staremo a vedere nelle prossime ore la situazione in Siria. Adesso invece torniamo in Italia, voltiamo pagina del caso delle vicende giudiziarie che scuotono la Lega, abbiamo già parlato, e c'è un'altra vicenda giudiziaria che invece riguarda la sinistra. Darne notizia è stato ieri lo stesso Nichi Vendola, segretario di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà. Ho ricevuto, ha detto ieri, un avviso di garanzia, ha spiegato in una conferenza stampa improvvisata il governatore pugliese, che ha accusato di concorso in abuso d'ufficio. Rancore. Sarebbe questa, secondo Nichi Vendola, la motivazione che ha spinto Lea Cosentino ad accusarlo. L'ex commissario straordinario della ASL di Bari, al centro dell'inchiesta sulla rete che scambiava appalti e nomine nella sanità pugliese, licenziata da Vendola, avrebbe agito per ripicca, secondo il governatore. Lady ASL, così è stata soprannominata la Cosentino, ha raccontato di aver ricevuto pressioni da Vendola perché venissero riaperti i termini del concorso da primario di chirurgia toracica all'ospedale San Paolo di Bari, in modo che potesse parteciparvi un medico che Vendola intendeva favorire, Paolo Sardelli. Alla fine Sardelli vinse il concorso perché, ammette la Cosentino, era il più titolato. Vendola, che non ha alcuna intenzione di dimettersi, così si giustifica. Io vengo accusato dalla persona che è al centro di tutte le indagini sulla malasanità di aver fatto vincere, come di aver forzato perché diventasse primario, uno dei più bravi medici d'Italia. Ho sempre, diciamo, segnato il mio rapporto con i manager delle ASL affinché i concorsi fossero veri, partecipati e che potesse vincere il migliore. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era il momento della nostra rubrica quotidiana dedicata all'evasione fiscale, alla lotta all'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. I libri contabili ce li hanno rubati. Questa la scusa con la quale due imprenditori che commercializzano computer nella provincia di Frosinone si giustificavano davanti ai finanzieri che volevano controllare conti e ricevute. E per essere creduti mostravano loro anche due denunce di furto. Peccato che le denunce fossero fittizie. In realtà le due società tentavano di nascondere un'evasione di 58 milioni di euro, portata avanti ancora una volta con il meccanismo delle frodi carosello, attraverso il quale le società evadono l'IVA passando fittiziamente la merce da società a società. Una frode diffusa, come spiega il colonnello Roberto Piccinini. In Italia è molto frequente e colpisce in particolare alcuni settori nei quali è molto importante riuscire ad avere una concorrenzialità spiccata. Lo sono per esempio i prodotti hi-fi, lo sono per esempio i prodotti di computer e lo sono per esempio le autovetture. Ancora una volta quindi l'evasione colpisce le casse dello Stato, ma anche e pesantemente la concorrenza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In attesa del 28 aprile, giorno nel quale debutterà ufficialmente Italo, il nuovo treno della NTV, oggi a Roma c'è stata una conferenza stampa per la presentazione di questa offerta commerciale. Italo, il treno che viene definito il più moderno d'Europa. Sentiamo allora Giuseppe Sciarrone, amministratore delegato di NTV Italia, che cosa ha detto ai microfoni di Vincenzo Miglietta. La cosa importante per gli italiani è poter scegliere, quindi la vera novità è che finalmente gli italiani hanno la possibilità di scegliere per la prima volta in Europa. Ci tengo a dire che l'Italia è all'avanguardia in questo senso. Sceglieranno noi se il rapporto qualità-prezzo del nostro servizio sarà concorrenziale con quello delle ferrovie. Noi offriremo un servizio, pensiamo, di elevata qualità con una gamma di prezzi che consentirà a tutti i viaggiatori, con tutte le possibilità economiche, di viaggiare con Italo. E ora parliamo di calcio. Ieri sera, turno infrasettimanale della Serie A, 32esima giornata, non mancano gli spunti con la Juve che torna in vetta e due vecchie glorie, grandi campioni, Dario Ceccarelli, che sono protagonisti. Buongiorno. Sì, buongiorno Alessia. Sì, le due vecchie glorie, non diciamolo troppo perché poi i tifosi si offendono, sono Del Piero e Totti. Partiamo dalla Juventus, che ha battuto la Lazio, ha respinto l'assalto del Milan e quindi ha rifatto questo sorpasso, soprattutto diciamolo grazie a una magia su punizione di Alex Del Piero, un Del Piero che così riesce a imprimere il suo sigillo proprio nei momenti decisivi. Sentiamo intanto Del Piero. Pareggiare questa partita o anche perderla sarebbe stato calcisticamente un suicidio, insomma, dopo il primo tempo. Siamo alle battute finali, il fatto di non mollare, non molleremo né noi né loro. Adesso è una guerra di nervi, una guerra di stanchezza, di lucidità, di tante cose. Noi abbiamo vinto, siamo bene e pensiamo alla prossima. È incredibile, sembra ancora un ragazzino, ha quell'entusiasmo, quella voglia, dice pareggiare sarebbe stato un suicidio. Del Piero, che ha quasi 38 anni, 700 partite in bianconera, è un po' l'arma segreta di questa Juventus capolista. Quando la squadra di Conte ha cominciato a boccheggiare, stanca di assediare la porta di Marchetti, Del Piero ha tirato fuori dal suo cilindro una punizione che si è andata a infilare proprio nell'angolo opposto da quello a cui pensava il portiere Marchetti. E il giorno dei vecchietti, dicevamo, perché Totti fa il gol numero 212 e l'Udinese si inchina al capitano giallorosso e per la Roma, diciamo che sì, la Roma rischia di avvicinarsi alla zona Champions perché approfitta anche del capitombolo del Napoli, che ormai è solo un bel ricordo. L'Atalanta, un'Atalanta in grande forma, gli ha inflitto il terzo KO consecutivo e del Napoli possiamo solo dire che si è perso a Londra dopo l'eliminazione dalla Champions, non ha più benzina, motivazioni, idee, quindi rischia una grave involuzione e lì si vedrà se il suo allenatore e Mazzarri, se la squadra è veramente cresciuta oppure è stata vissuta sui suoi talenti. L'ultima cosa la dico è l'Inter, che è tornata in corsa per l'Europa. Milito ha calato una doppietta un po' raccambolesca, però intanto passo in passetto con i suoi vecchietti, perché la squadra con più vecchietti in squadra si procede. Il progetto Stramaccione si vedrà se ha un senso o no, però comunque per Moratti una serata diciamo di serenità, tanto vero che ha detto che Ballotelli non gli interessa più, ma questa è un'altra storia che avrà tanti altri capitoli. Grazie allora a Dario Ceccarelli e siamo in chiusura per questa edizione di GR24. È tutto, Alessio Maurizio in studio, Paolo Corleoni in regia, vi augurano buona giornata. Linea che va all'Italia in controluce, prossima edizione di GR24 invece alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.